Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Concludiamo questa sera una sorta di viaggio che abbiamo avviato con voi 3 settimane fa, traendo spunto dall'anniversario celebrato lo scorso 25 marzo dei 60 anni dalla firma dei trattati istitutivi della Comunità Economica Europea. Prese avvio allora nel 1957 il lungo e travagliato percorso di integrazione con cui ancora oggi siamo alle prese. È un viaggio tra i protagonisti, alcuni forse poco noti, che presero parte ai negoziati. Le interviste vennero realizzate negli anni 80 del secolo scorso dalla professoressa Maria Grazia Melchioni, che attualmente dirige la rivista di studi politici e internazionali, e dall'ambasciatore Roberto Ducci, interviste ora rese disponibili dall'Istituto dei Beni Sonori e Audiovisivi. Buonasera professoressa e bentornata. Grazie, buonasera dottor Pesole. Questa sera ascolteremo in particolare la testimonianza dell'ambasciatore Robert Rothschild, che lavorò alla stesura della bozza dei trattati di Roma. Poi sarà la volta proprio di Roberto Ducci, che era presidente del comitato di redazione dei trattati, che concentra la sua attenzione sugli errori commessi e sulla mancata integrazione politica. Allora, ascoltiamo Robert Rothschild. Come dicevo 2 o 3 minuti fa, noi eravamo tutti dei romantici. Credo che si debba esserlo un poco, altrimenti non si fa granché. E l'idea di Roma appariva come la migliore. Roma era il centro dell'Europa, e di là che è venuta l'intera Europa, l'Europa cristiana prima, poi la civiltà europea. Allora Spaak, romantico e artefice dell'Europa, intendeva tornare a Roma, firmare il trattato a Roma. Roma, il centro dell'impero romano che costituiva l'Europa più dell'Europa di oggi. Quando siamo saliti sulla collina del Campidoglio il giorno della firma, eravamo in anticipo di qualche minuto. Insieme a Spaak ci siamo affacciati sulla terrazza che domina tutti i fori. Allora ho detto a Spaak, anch'io un po' romantico, «Avete ricostruito ciò che non esisteva più da 2000 anni e siete riusciti là dove Carlo Magno e Napoleone hanno fallito. Ci siete riusciti senza armi, con la vostra penna e la vostra intelligenza». «Vous avez réussi là où Charlemagne et Napoléon ont échoué, et vous l'avez réussi sans armes, avec votre plume et votre intelligence». Allora, professoressa, sì, un po' di retorica, ma avevano colto nel segno. Siete riusciti senza armi, con la vostra penna e la vostra intelligenza. Mette in luce questo brano il ruolo di Spaak alla testa del comitato di studio e poi della conferenza di Bruxelles, con la sua visione, la sua ambizione, il suo temperamento anche, il suo metodo, la sua posizione di ministro degli esteri che gli permetteva di contattare in qualsiasi momento i suoi omologhi e di risolvere delle questioni. E poi mette in luce, a mio avviso, anche un'altra cosa importante, il sentimento di unità culturale dell'Europa, che in quegli anni era molto forte. Denis de Rougemont se n'era fatto banditore perché c'era la contrapposizione ideologica fra Est e Ovest, e anche perché la costruzione europea in quegli anni era nelle mani esclusivamente dell'élite, quindi ne rifletteva la percezione, perché la percezione dell'alta cultura era dell'unità in Europa. In seguito, quando lo sviluppo dell'integrazione coinvolse sempre di più sfere grandi della popolazione dei Paesi membri, portatrici di specificità culturali, ecco che questa la definizione dal punto di vista culturale dell'Europa cambiò. Non si parlò più di unità culturale, ma si parlò, come si parla oggi, di unità nella diversità della cultura europea. Questa è una differenza importante. Certo, lo è senz'altro. Allora ascoltiamo, professoressa, insieme l'intervista a Roberto Ducci, in particolare questo passaggio in cui affronta il tema dell'allargamento dell'Unione Europea e delle cause che hanno condotto alla mancata integrazione politica. Certes, élargir la communauté n'a fait que rendre plus difficile ses buts à cause du fait que la base. Certo, allargare la comunità non ha fatto che rendere più difficile raggiungere gli scopi che ci eravamo prefissi, a causa del fatto che l'allargamento era sempre quello su cui si era costituita la comunità dei 6 paesi. Vale a dire che gli stati restavano sovrani. Diciamo la verità, non abbiamo mai avuto delle dimensioni sovranazionali, né nella CECA, né ancor meno nella CEE o nella comunità atomica, che del resto è scomparsa dopo una breve vita. Non si è mai riusciti a sostituire agli stati nazionali uno stato federale. In sostanza, non si è fatta la confederazione e tutti hanno commesso degli errori. Quando De Gaulle la propose, noi ci mostrammo riluttanti, eravamo contrari, dicevamo la federazione o niente. Ma al contrario, non abbiamo ottenuto né la federazione né, per motivi ancora più evidenti, la confederazione. A mio avviso, abbiamo percorso tutte le strade possibili. Abbiamo provato a realizzare l'integrazione per settori, aprendo delle brecce nelle muraglie degli stati sovrani. Abbiamo provato a percorrere la strada dell'unione doganale e poi dell'unione economica. E ancora, la strada dell'unione monetaria, della difesa, dell'esercito europeo che è già fallito e che non è mai stato ripreso, benché se ne discuta molto oggi. Abbiamo provato a percorrere la strada della cooperazione diplomatica, ma nessuna di queste formule ci ha fatto avanzare d'un passo verso l'Unione. Nous avons essayé la coopération diplomatique. Aucune de toutes ces formules nous a fait avancer d'un pas vers l'Union. Allora, da questa testimonianza, professoressa, da un lato il ruolo di De Gaulle, che era un convinto europeista, diciamolo, e poi anche la figura stessa dell'ambasciatore Ducci. Sì, l'idea di Ducci era che si sarebbe dovuta fare l'unione politica, approfittare dell'ambizione di De Gaulle per riuscire a fare questo, perché la comunità doveva avere un'identità di politica estera e di difesa. Roberto Ducci è stato uno dei proto-europeisti italiani più eminenti come diplomatico e come scrittore. Scritto moltissimo, ma come diplomatico è stato responsabile dei negoziati europei più importanti, negoziato per l'ingresso della Gran Bretagna, negoziato per avviare la cooperazione politica europea, la conferenza per la sicurezza e la cooperazione di Helsinki. La sua idea non si è materializzata negli anni 80, 70, 80, forse perché quando la predicava era precoce, non era ancora strettamente necessaria, come oggi nel mondo multipolare che si va disegnando è diventata. E perché se l'Unione Europea se vuole occupare in questo nuovo ordine multipolare un ruolo di comprimario accanto agli Stati Uniti, alla Russia, alla Cina, a qualche grande paese allargato, deve qualificarsi nella sfera dell'hard power. Gli Stati Uniti, la Cina, la Russia sono attori globali in un mondo che in fase di transizione, in una transizione che si sta svolgendo non in modo pacifico ma attraverso guerre di ogni genere, commerciali, di vicinato, asimmetriche, invasioni migratorie che toccano anche l'Unione Europea. L'Unione Europea prima pretendeva poter essere una potenza civile e di essere protagonista a livello globale giovandosi del suo soft power. Ma dopo che le cose nel mondo sono cambiate sulla scena della politica internazionale, l'hard power è ricomporso, è ricomparso, non può più essere solo una potenza civile, deve qualificarsi anche per il suo potenziale militare se vuole essere riconosciuta come uno dei poli di potenza mondiali. In fondo lui ci diceva nelle sue lezioni sul negoziato diplomatico che quello che distingue la diplomazia da tutte le altre forme di negoziato è il fatto che dietro il diplomatico c'è l'esercito e c'è un potere sovrano che ha il diritto di usare questa forza militare per difendere l'interesse nazionale. Molto quindi, interessante, sì, molto interessante tutto questo, anche perché poi Ducci con una grande preveggenza mette in piedi tutte le cose che sono state fatte e poi dice ma nessuna di queste ci ha fatto avanzare verso l'unione politica. Che oggi è diventata un passo necessario da compiere, perché l'Unione Europea deve poter avere una presenza nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, deve essere una sua presenza individuale nella NATO, deve essere una potenza nucleare con un comandante in capo, avere un suo, se non un esercito europeo, almeno una stretta effettiva cooperazione militare tra gli eserciti dei paesi membri. Questo per essere trattata alla pari, perché priva della sua struttura di attore globale nella sfera dell'alta politica, come ora, l'Unione Europea rappresenta il vicinato comune di due veri poli di potenza mondiale, nel quale questi scaricano le loro tensioni sfruttando interessi locali, e non è una bella situazione. Bene, sì, sì, infatti. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Colgo anche l'occasione, professoressa, per ringraziarla veramente tanto per averci aiutato in queste quattro puntate ad affrontare questo viaggio complesso tra i protagonisti che poi collaborarono in modo fattivo, in modo molto, molto importante alla stesura stessa dei trattati. La ringraziamo molto, è stata preziosissima e spero che sia stata... Ringrazio lei per avermi fatto rivisitare queste cose. Bene. Grazie molte. Grazie ancora, professoressa. Buona serata. Anche a lei, grazie. Un ringraziamento a Luca Cremonese in redazione, a Valerio Rocchetti in regia. A sabato prossimo.